Mariposa, Corso Lodi numero 1 a Milano, ti invita all'ascolto di... Un benvenuto su Rock FM, una buona serata a tutti voi. Inizia il primo o terzo appuntamento di questa settimana con Arden Devi, la voce di Marco Gravelli. Il saluto e ringraziamento al nostro autore Simone Scavo. Entriamo nel nostro ultimo mese, entriamo in una delle ultime puntate di Arden Devi. Ricordo comunque che ci sarà la nottata tutta dedicata al mondo hard rock e metal, con diverse rarità, diverse chicche, oltre che le consuete band famose, nella notte tra la mezzanotte del venerdì 16 di maggio e quindi tutta la mattinata di sabato 17 maggio, condotta sempre da Marco Gravelli e in coppia con Max De Rieu, dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Avete preso appunti? Mi raccomando, segnalatelo anche ai vostri amici. Iniziamo l'appuntamento di questa sera con il nostro consueto riallaccio al passato. Partiamo dalla Germania, con questa volta non la solita consueta power metal band tedesca, ma bensì qualcosa di decisamente più melodico, di più hard rock. Sono nati nel 1990 col nome Tax, cambiato nell'attuale Jaded Art, in occasione dell'album di debutto del 1996, intitolato Inside Out. Nel loro lungo curriculum ci sono da menzionare concerti di supporto a Glenn Hughes, Gotham, Axis. Il loro secondo album Slaves and Masters è rimasto nella top 10 giapponese di dischi di importazione per ben 4 mesi, mentre il loro quarto lavoro del 99 è considerato uno dei migliori album di melodic rock. Nel corso degli anni ci sono stati diversi cambi di formazione, tanto che la line-up originale, di quella line-up oggi rimangono solo il batterista e il bassista. Ultimo a fuoriuscire dalla band è stato il cantante, compositore e fondatore, cioè Michael Borman, ex Bonfire, che ha deciso di intraprendere la carriera solista e partecipare ad altri progetti. Al suo posto è stato reclutato il sorprendente Johan Falberg, ex proveniente dagli Scudiero. L'ultimo album è stato Hell of a Time ed è uscito tramite Frontiers nel 2005. Dal loro primo album Inside Out andiamo ad ascoltare la track numero 1, la canzone che dà il titolo all'album, Inside Out. Un'ottima band di melodic hard rock dalla Germania, i Jaded Art, Inside Out, titolo del brano, titolo di questo loro primissimo album, che noi lasciamo per rimanere sempre comunque in Germania, ma andare su sonorità decisamente più power, con i Running Wild, gruppo creato dal cantante e chitarrista Rock'n'Rolf. Questo è il suo soprannome, il vero nome è Rolf Kasparek. Il gruppo nasce nel 76, da prima si chiamavano Cuore di Granito, Granite Art, cambiato 3 anni dopo nell'attuale più celebre Running Wild. Musicalmente all'inizio suonavano un roccioso heavy metal, cambiato poi nel corso degli anni in un classico speed power metal, il cui sound è sempre riconoscibile. Il loro esordio arriva nel 1984 con l'album Gates to Purgatory, che li fece emergere dall'underground. Il primo successo arriva con l'album Under Jolly Roger del 1987, che è uno degli album più celebri della loro discografia e più importanti. Da questo lavoro in poi la band avrebbe associato la propria immagine proprio a quella dei pirati, soprattutto per quanto riguarda le copertine e in parte anche negli spettacoli dal vivo. Altri album importanti sono Port Royal, Death for Glory e Black Hand Inn. Diversi musicisti sono transitati tra le file della band, segnaliamo i batteristi York Michael, Stefan Hoffman e il bassista Jens Becker. La band è impegnata nella realizzazione del nuovo album. Dall'album Under Jolly Roger, il pezzo che si intitola Under Jolly Roger. We'll be right back. Un inizio tutto dedicato alla Germania con il melodic hard rock dei Cheered Heart e il speed power dei Running Wild con le note di questa Under Jolly Roger, la mia voce che se ne va in cantina, vabbè. Ritorniamo alle cose più recenti con il nuovo album dei Royal Ant, uscito a fine febbraio sull'etichetta italiana napoletana Frontiers, questo album per la band proveniente dalla Danimarca, gruppo creato dal tastierista russo Andrei Anderson. A differenza dei lavori passati c'è un nuovo cantante, si parla di un nome già noto che è Mark Bowles, che ha già cantato in 3 album di Malmsteen. In 3 album nel suo gruppo che si chiama Ring of Fire. È entrato in lineup lo scorso anno per sostituire John West, che ha lasciato la band nel 2006. Questo nuovo lavoro si intitola Collision Course Paradox Part 2, è il seguito del loro fortunato concert Paradox e si compone di 10 tracce. La band suonerà il prossimo 14 maggio a Bologna presso il nuovo sottotetto proprio qua in Italia. Un concerto da non perdere. Li ascoltiamo con The First Rock, Royal Ant. Calling, holy grace, commanding bigger powers. Grande gruppo, rispetto e sottolineo, 14 maggio al nuovo sottotetto di Bologna ci sarà la loro unica apparizione in Italia, Royal Ant, con il nuovo album concept Collision Course Paradox Part 2, li abbiamo ascoltati con The First Rock. Cambiamo sonorità dalla Danimarca all'America, band che arriva da Philadelphia e che grande successo ha avuto negli States nella seconda metà degli anni 80. Pensate che hanno venduto 18 milioni di dischi, 7 dischi di platino. Sto parlando dei Cinderella. L'album d'esordio arriva nell'86, si intitola Night Songs. Grande successo soprattutto considerato che era l'album d'esordio. Arriva al numero 3 nelle charts americane con ben 3 dischi di platino, più di 3 milioni di copie vendute, tour di spalla ai Bon Jovi e vari singoli piazzati all'interno delle charts. Il successivo Long Cold Winter è considerato da molti il loro capolavoro. Arriva nell'88 e bissa il successo del debutto, anch'esso con 3 milioni di copie vendute. Con l'arrivo del grunge, Cinderella e il glam cominciano a passare in secondo piano e il loro album Still Climbing del 94 passa praticamente inosservato. Le scarse vendite li portano alla perdita del contratto ed in poco tempo la band si sciolse. Si riformano nel 1997 con la lineup classica per alcune date live, oltre a registrare un paio di brani nuovi inseriti in un loro best of. Li ascoltiamo dal loro primo album con Somebody Save Me, Cinderella. Save Me, da loro Night Songs, primo album per la formazione americana dei Cinderella. E chiudiamo praticamente questa prima parte, quasi interamente come spesso accade, dedicata un po' al passato tra band più o meno note e conosciute. Andiamo nel periodo della New Wave of British Heavy Metal, quando arriva questa band che pubblicherà un paio di demo, un singolo e due album per poi sciogliersi. Si chiamavano Beaches Sin. Il gruppo arriva agli inizi degli anni Ottanta dal nord dell'Inghilterra. Il nome si racconta saltofuori dopo una lunga nottata in un pub a base di fiumi di birra. Nel 1980 incide un demo di 7 brani sulla quale all'epoca la famosa etichetta specializzata nel heavy metal in Inghilterra, cioè la Neat Records, pubblicò il loro primo singolo. Poi arrivarono partecipazioni a diverse compilation sempre dedicate al mondo della New Wave British Heavy Metal. Arriva un secondo demo e finalmente l'album di debutto dal titolo Predator. Problemi di line-up però affliggono il gruppo e ci vuole un po' di tempo, addirittura 4 anni, per arrivare alla pubblicazione del secondo album, Invaders, che sarà anche il loro ultimo, perché poi la band si scioglie, partono dei progetti paralleli come i Flashpoint, però di loro poi si perdono le tracce. Il gruppo fu creato dai due chitarristi, due fratelli, Pete e Ian Tomey, che secondo molti lasciarono un'ottima impronta per quanto riguarda il panorama appunto della New Wave British Heavy Metal, e tanto che quest'album Invaders, il loro secondo, venne votato come miglior album dell'anno da diverse riviste specializzate. Noi da quell'album oggi andiamo a proporre la traccia che apriva il lavoro, intitolata In Life Beach. La formazione è quella degli inglesi Beaches Scene, dal loro secondo album Invaders. We'll be right back. dolci ascoltare Rock FM gustando la mitica caramella Ziguli. Ziguli rende più dolce ogni momento e soddisfa la tua voglia di dolcezza. Oggi le caramelle della tua infanzia le trovi anche nelle pratiche confezioni Pocket, nei gusti frutta, liquirizia e cioccolato. Chiedile al tuo bar. Ziguli, il mito continua. Rock FM Spot. In Flames, The Mirror of Truth, il fantastico ritorno della miglior melodica death metal band del mondo. Voce aggressiva, riff enormi, momenti di melodia ed un tiro da paura. Questo è il vero metal moderno. Questi sono gli In Flames, nei migliori negozi di dischi. Seconda parte del nostro consueto appuntamento di Arden Davis su Rock FM, dalle 20 alle 21, dal lunedì alla martedì, in compagnia di Marco Gravelli, con il nostro autore Simone, con i Mercenary Band, che è composta da 6 elementi, provengono dalla Danimarca, precisamente dalla città di Aalborg. Il gruppo nasce nel 1991 proponendo un thrash metal che poi è mutato in un melodic death metal sino ad oggi, dove ci sono due voci, dove diciamo che la parte melodica è stata notevolmente accentuata. Dopo 2 demo ed un EP arrivano all'esordio nel 98 con l'album First Breath, seguito nel 2002 dal secondo lavoro Ever Black, dal sound più melodico. Soprattutto in America cominciarono ad essere conosciuti e ottengono così un contratto con la Century Media. Esce il terzo album, Eleven Dreams, che gli vale anche un tour in tutta Europa. A 2 anni di distanza dal precedente è arrivato questo nuovo quinto album, Architect of Lights, che vede un cambio di line-up con un nuovo bassista cantante per le parti più growls. L'album alterna tracce più potenti ad altre più melodiche. Oggi vi ho proposto Embrace the Noise. Ricordo che quest'album, che si intitola appunto Architect of Lies, album che ha raggiunto la 35esima posizione nelle classifiche nazionali, viene pubblicato anche in una limited edition con un bonus DVD con brani video dal vivo, uno studio report e un video di una traccia dell'album precedente. Dalla Danimarca ci spostiamo in Finlandia. Possiamo considerarli i Manowar finlandesi, un nome impronunciabile, Terras Betoni, che vuol dire cemento armato. È un gruppo che da noi è praticamente sconosciuto, ma in Finlandia sono molto famosi. I due album che hanno pubblicato hanno raggiunto la seconda posizione delle classifiche nazionali. È composto da 4 elementi, il gruppo è diciamo che è una band che non si prende molto sul serio, stando anche al video dell'ultimo singolo che hanno realizzato. Si vestono da vichinghi, quindi un'attitudine quasi alla Manowar, come vi dicevo. Il loro esordio arriva nel 2005, ha venduto in patria 33.000 copie, è arrivato al numero 2. Nel 2006 è uscito invece il secondo album ed ora è la volta di questo terzo, che vi risparmio il titolo perché non riuscirei a dirlo, dato che cantano in lingua finlandese. Il pezzo che andiamo a proporvi è il singolo, la traduzione è Dove cavalcano gli uomini. Questa è la traduzione del brano in questione per i Terras Betoni, direttamente dalla Finlandia. Yeah! canzone che arriva dalla Finlandia, il pezzo in questione è il singolo dove cavalcano gli uomini alla traduzione, visto che cantano in lingua madre, e in effetti vi è il viso di un cavallo raffigurato sulla copertina di questo singolo che ci è giunto in redazione direttamente proprio dalla band, o perlomeno dal management della band. Andiamo in America per questa formazione che però pubblica il suo album tramite una etichetta europea, spagnola, di Madrid, la Locomotive Records. Imagica con la K nel nome di questa band, e l'album è uscito da una decina di giorni, si intitola Fist for the Hated. Loro sono nati nel 1993, il loro nome Imagica deriva da una novella di Clive Barker. Il loro esordio arriva nel 95 con l'omonimo album, che era all'epoca autoprodotto e li aveva fatti notare a livello locale. Hanno già alle spalle 5 album, l'ultimo venne pubblicato nel 2006. Questo ultimo, sesto, presenta 10 tracce mixate da Andy LaRocque dei King Diamond. Li ascoltiamo con Thinning Out the Herd, la band è quella degli Magica. estratto dal nuovo album degli Imagica, uscito da una decina di giorni. Abbiamo ascoltato Thinning Out the Herd. Andiamo invece a presentare le news di questa sera. Partiamo coi Candlemass, la doom metal band svedese sta lavorando ad un nuovo EP dal titolo Lucifer Rising. Le registrazioni sono cominciate in aprile e l'uscita è prevista per il mese di settembre su etichetta Nuclear Blast. L'EP conterrà due nuove tracce più altre dal vivo. Il nuovo album invece viene registrato alla fine dell'anno, uscita prevista per la primavera del 2009. Un'altra band svedese, quella dei Pain, è ritornata all'etichetta Nuclear Blast, la quale ha annunciato che il nuovo album verrà pubblicato nell'ottobre di quest'anno. Dream Theater hanno registrato la cover di Two Time Land degli Iron Maiden, dato che il famoso magazine inglese Kerrang pubblicherà un tributo agli Iron e i Dream Theater saranno presenti con quella cover. Gli Skyclad, la folk metal band inglese, tornerà in Italia il 30 di agosto in occasione di un festival che si chiama Brintal Celtic Folk Festival, che si terrà in provincia di Vicenza a Valstagna. Vince Neil, mentre i Motley Crue hanno pubblicato da poco il nuovo singolo, il cantante verrà in Italia per una data per presentare il proprio progetto solista. Tutto questo accadrà il prossimo inverno, 23 ottobre, presso l'Estragon di Bologna. Andiamo invece a parlare dei Place Vendôme, il progetto hard rock AOR ideato dal boss della Frontiers Records, cioè Serafino Perugino, che vedeva alla voce il grande Michael Kiske. Visto il successo dell'omonimo album d'esordio, ha annunciato un secondo album al quale prenderanno parte il batterista dei Pink Green 69 e il tastierista dei Vanden Plas, oltre al solito Dennis Ward, che si occuperà anche della produzione. Collaboreranno inoltre tre artisti emergenti del catalogo della Frontiers, cioè il batterista dei Saint Demon, il chitarrista dei Leverage e il chitarrista dei Work of Art. L'uscita è prevista per la fine dell'anno. Nel frattempo, a proposito di Michael Kiske, è in uscita questa settimana il nuovo album solista. Questo lavoro, come avevamo anticipato molto tempo fa nelle news, è un lavoro tutto acustico. Sono state riprese le canzoni che aveva scritto negli Halloween e le ha riarrangiate con la sola chitarra. Le canzoni sono 11 e 10 sono della discografia degli Halloween. Se non sbaglio, purtroppo questo brano ha il cosiddetto voiceover dell'etichetta posizionato sulle copie promozionali. Comunque, se comprate l'album non sentirete queste voci sovrapposte. Il pezzo sentito a We Got The Right, la cui versione in studio è nel secondo Keeper of the Seven Keys. L'album di Michael Kiske si intitola Past in Different Ways e questo è il brano. If you believe you bet. You are listening to the new Michael Kiske album, Past in Different Ways. Questa era We Got the Right dal nuovo lavoro di Michael Kiske che arriverà proprio alla fine di questa settimana. Si intitola Past in Different Ways. Sono state reinterpretate le canzoni degli Helloween, ci sono 11 brani in totale. Alle chitarre vi è anche un italiano, Sandro Giampietro. La produzione è affidata allo stesso Michael Kiske. Si intitola Past in Different Ways. Vi ho proposto We Got the Right. Andiamo ad un'altra band, questa volta americana, anche se il prodotto viene stampato sia nel precedente che in questo album dall'etichetta italiana di Roma, Cruz del Sur. Stiamo parlando dei Pharaoh, band composta da quattro elementi, nella quale segnaliamo la presenza del cantante Tim Aymar, che ha preso parte al progetto Control Denied. Questo nuovo album si intitola Be Gone, è il loro terzo, si compone di 10 tracce, presenti come special guest Mark Reale e Mike Flintz dei Riot. Li ascoltiamo con Red Honor dal loro album Be Gone. Dalla band americana dei Pharaohs andiamo a chiudere il nostro appuntamento di quest'oggi di Hard and Heavy con un'altra band americana, uno dei più grandi gruppi di thrash metal, cioè i Testament, la scorsa settimana presentato dallo storico chitarrista Eric Patterson. Abbiamo con lui in intervista presentato le tracce del nuovo album, la storia di questo loro nuovo lavoro che si intitola The Formation of Damnation. Oggi vi presento uno dei brani più belli, Fear. Vi ringrazio come sempre per avermi seguito sino a questo punto. Ci ritroveremo naturalmente domani sera con il secondo appuntamento qua su Rock FM di Hard and Heavy. Simone Scavo, Marco Gravelli vi ringraziano e come già detto vi rimandano a domani sera. Buon proseguimento con la musica, gli appuntamenti e il sound di Rock FM. Ciao ciao. Mariposa, Corso Lodi numero 1 a Milano, ti ha presentato...